Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Cominceremo con un personaggio che sta diventando sempre più simpatico e che è il signor Neanderthal. E poi la scienza è o non è democratica? Ecco, bel problemone. Allora, via. Eccoci su Neanderthal. Perché? Questo signore. Perché? Perché sta venendo fuori costantemente notizie sul fatto che era in gamba. Sapeva fare un sacco di cose. Tanto che ci chiediamo perché noi ce l'abbiamo fatta e Neanderthal no. Sì, perché siamo noi sapiens che l'abbiamo tolto di mezzo. O forse, non so, magari qualcosa ha combinato pure lui. Insomma, noi abbiamo tante domande e le facciamo a Marco Peresani, docente di archeologia del Paleolitico all'Università di Ferrara. Buonasera. Buonasera Simona, buonasera Federico e buonasera agli ascoltatori. Insomma, chi era Neanderthal? A quanto pare non era poi così bruto. Meno intelligente di noi, allora. Sembrerebbe proprio così, insomma, l'ha detto giustamente Federico, era proprio uno in gamba. Compare intorno a 400.000 anni fa in Europa e supera le varie glaciazioni che si sono succedute nel corso del tempo. Non ha resistito però al grande arrivo dei sapiens intorno a 40.000 anni fa. Sta di fatto che comunque quello che si sta scoprendo con sempre più insistenza in questi ultimi anni è straordinario. Cioè, l'ultimo lavoro pubblicato di recente sulla rivista Nature attesta che era un individuo, lui e le sue genti, perfettamente adattato ai climi glaciali, ai vari ambienti, ai mutamenti del clima di quel tempo. E poi cucinava bene, questa era una notizia di poche settimane fa. E aveva una dieta varia. Varia. Non dico mediterraneo, ma... Insomma, cosa mangiava Neanderthal, l'uomo di Neanderthal? Beh, è da tutti riconosciuto largamente che fosse un abilissimo cacciatore, quindi si cibava di carne. Però quello che emerge dall'analisi degli isotopi nei resti ossei, nei denti, dall'analisi del tartaro conservato e applicato ancora sui vari denti ritrovati in giro per l'Europa, emerge che in realtà conosceva anche bene le proprietà organolettiche, le proprietà curative di piante, muffe, funghi e così via, insomma, frutti secchi vari. Questo è emerso proprio perché sono rimaste tracce imprigionate nella placca dei denti e quindi si è capito non soltanto che cosa mangiavano, ma anche che facevano uso di queste piante molto probabilmente per alleviare il dolore. Sì. Per fortuna potremmo dire si lavava poco i denti, insomma. E le carie erano rarissime a quel tempo. Gli ultimi dati parlano, hanno individuato un ascesso addirittura, insomma, qualche problemino ai denti lo aveva, lo subiva. Però la placca dentaria conserva resti di cibo, resti di poi i vari batteri e anche una grande quantità di DNA, di DNA dell'individuo stesso. Ma la cosa interessante sono i vari resti di sostanze vegetali, insomma, sono stati ritrovati appunto sui denti di individui risalenti a 48-47 mila anni fa in Belgio e ritrovati anche nel nord della Spagna, sono state ritrovate tracce di muffe, di funghi, di corteccia di pioppo che conteneva la famosa penicillina. Allora però c'è un detto intorno a Darwin che è sbagliatissimo, cioè che lui abbia sostenuto che vince dal punto di vista evoluzionistico sempre il migliore, il più adatto. Invece Darwin non l'ha mai detto e in questo caso sembrerebbe emergere proprio questa storia. Ma cioè, cos'è che hanno fatto i sapiens? Com'è che hanno fatto diciamolo brutalmente, a fregare i Neanderthal? Perché di fatto quando Sapiens è arrivato in Europa c'era già Neanderthal. Sì. Siamo stati noi sapiens a scombinare le carte? Sembrerebbe proprio così, però teniamo conto che anche il Neanderthal era un colonizzatore, insomma, un individuo in espansione, una popolazione in espansione. Lui nasce nella culla europea, l'Europa occidentale, sembrerebbe, o sud-occidentale, poi si espande, arriva fino in Asia, attraversa i Dardanelli, arriva nel vicino Oriente, dove 100.000 anni fa si si incontra con il Sapiens, con i Sapiens che vivevano a quel tempo in quelle zone, e iniziano i meticciamenti. Dopodiché il Sapiens ritorna in quelle zone, le attraversa e 40-41 mila anni fa arriva in Europa. Non si tratta di cause violente, non abbiamo evidenze dal punto di vista archeologico, è molto probabile che ci sia stata una sorta di diluizione, lenta diluizione genetica della popolazione neandertaliana all'interno della popolazione. Ah, vabbè, allora abbiamo preso qualcosa da loro. Sembra proprio così, questo qualcosa è ancora presente nel nostro patrimonio genetico. Senta, lei si occupa di Neanderthal e insieme al suo team ha fatto delle scoperte molto interessanti rispetto al fatto che non era solo un abile cacciatore, ma si dilettava anche ad abbellire il corpo. Sì, questo è stato straordinario, estremamente eccitante, potrei dire. Nell'arco di pochissimi anni, grazie ai ritrovamenti effettuati a Grotta di Fumane, siamo nel Veronese, oppure a Grotta del Rio Secco, siamo in Friuli, e ad altri che stanno emergendo in questi ultimi mesi, in questi ultimi paio di anni, è stato possibile riconoscere che il Neanderthal si occupava anche di uccelli, cioè era in grado di cacciarli, di catturarli, in parte per cibarsene, ma in parte anche per sfruttarne i loro elementi di adorno, cioè per sfruttare i loro elementi come elementi di adorno, penne, quindi per scopi ornamentali. Sì, sembra proprio di sì. Oltretutto anche rarissima qualche conchiglia ritrovata in questi depositi ci attesta del senso estetico, dell'interesse a utilizzare degli elementi come adorno e come elemento di riconoscimento e di comunicazione. Va bene, allora abbiamo recuperato un'immagine più bella, insomma, non di Neanderthal. Grazie Peresani, buona ricerca. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie altrettanto. E voi maschi e femmine Neanderthal, cosa state combinando nel traffico? Sentiamo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Lo dicevamo nei titoli, la scienza è o non è democratica? Noi di questo parliamo con i nostri ospiti, Roberta Villa, medico e giornalista scientifica, e Massimiano Bucchi, docente di sociologia della scienza all'Università di Trento. Buonasera e benvenuti. Buonasera. Buonasera. Benvenuti a Mebius. Allora, siccome non è bello non essere democratici, la risposta dovrebbe essere banale, no? Non va bene che la scienza non sia democratica. In realtà adesso noi andremo dentro questo tema perché ci sono ragioni per cui invece questa tesi è più che sostenibile. Però, siccome siamo ormai, direi da almeno un paio d'anni, per varie notizie dentro questo dibattito intorno ai vaccini è completamente esploso e continua, no Simona, a mantenersi ciclicamente, si riaccende. Vaccini però poi non solo, ne parla per quanto riguarda l'omeopatia, quando ci sono di mezzo gli OGM, solo però, per fare alcuni esempi. Certo, io direi però, Roberta Villa, di incominciare da te con una tua tesi particolare che tra l'altro hai dibattuto in modo molto vivace anche su pagine Facebook proprio negli ultimissimi giorni, cerca di sintetizzarcelo. Sì, allora a me non piace lo slogan "la scienza non è democratica", perché mi sembra un artificio retorico che vuole attribuire alla controparte delle dichiarazioni che in realtà nessuno ha mai fatto. Cioè si dice non si può votare se l'omeopatia funziona o no, il parere di un DJ non vale come quello di un ricercatore universitario, cose che in realtà nessuno ha mai detto. Quindi si vuole smentire o ridicolizzare la controparte con queste affermazioni che in realtà non esistono. Il concetto è di porre la comunicazione sulla scienza in una maniera dogmatica o in un altro tipo di maniera. E l'approccio dogmatico alla comunicazione della scienza, quello che viene chiamato il deficit model, cioè il pensare che le persone, se hanno dei comportamenti sbagliati, come non vaccinare i loro figli, è perché non sanno le cose, non capiscono, gliele dobbiamo solo insegnare, è qualcosa che è stato superato dalla ricerca da molto tempo. Il concetto è che ci vuole un dialogo. A livello internazionale sono fondamentali due approcci che anche la comunità europea, su cui anche la comunità europea finanzia molti progetti di ricerca, cioè che è indispensabile da un lato che ci siano diverse competenze che dialogano tra loro, e questo spesso nella comunicazione su temi complessi non ci sono solo i vaccini. Penso per esempio anche riguardo al cancro, un ricercatore che è anche all'avanguardia a livello, non so, della genetica del cancro, non è detto che sia competente sulle modalità di applicazione degli screening oncologici o nella comunicazione al paziente. Quindi ci sono tante competenze che vanno integrate tra loro, cui ci vuole rispetto delle reciproche competenze. E poi bisogna capire che la scienza è qualcosa che è sempre più calato nella società, perché è la società che finanzia la ricerca ed è alla società che vanno i prodotti della ricerca. Se noi facciamo degli OGM meravigliosi ma la gente non li vuole perché ha paura, abbiamo sprecato tante risorse, e così vale per i vaccini. Se noi non riusciamo a far capire alle persone, andando alle ragioni vere, studiando le ragioni vere, emotive e non solo la loro paura, ma semplicemente ci diciamo dovete capire perché lo diciamo noi. Sì, c'è una comunicazione sbagliata, insomma, c'è una gestione della comunicazione sbagliata. Però Massimiano Bucchi, in qualche modo è corretto dire che quando parliamo di scienza, che per la scienza non vale la cosiddetta par condicio, cioè non è che si possono sempre sentire le due fantomatiche campane. Sono d'accordo in larga parte con quello che diceva la dottoressa Villa, però credo che ci siano due tipi di confusioni. Allora, la scienza come modo di operare, di discutere, non è mai stata democratica, lo dimostrano in molti casi nella storia della scienza in cui una minoranza o addirittura un singolo scienziato si è capito che poi aveva ragione quando gran parte degli altri magari la pensavano diversamente da lui. E trovo ridicolo, cioè, cosa facciamo? Votiamo a maggioranza per decidere se c'è la legge di gravità. È chiaro che in questo senso la scienza non è democratica. Altrimenti detto, cioè, stiamo dicendo che la scienza ha le sue regole, bisogna rispettarle, chi le rispetta, anche se una voce fuori dal coro può dimostrare di aver ragione. Certo. Quello che invece, come diceva la dottoressa Villa, dovrebbe essere democratico è il rapporto tra scienza e società. E in questo senso io per esempio trovo che la discussione, la scelta delle priorità della ricerca, soprattutto a livello europeo, ma anche a livello nazionale, ma a livello europeo sappiamo che ci sono tanti soldi in ballo, sia totalmente opaca da questo punto di vista. Non ho visto, insomma, da parte di nessuno un dibattito, una discussione democratica che abbia coinvolto gli scienziati, i cittadini, i pazienti, su come, per esempio, il tema delle priorità è quello più importante, no? Come investire i finanziamenti disponibili, quali scelte fare, con quali priorità rispetto anche alle peculiarità nazionali. Ecco, questo è il punto. La politica della ricerca è una delle cose più lontane dal largo pubblico, da tutti coloro che non ci sono dentro. Anche lì però verrebbe fuori un problema non da poco, perché certo, per esempio, sulle cosiddette scienze di base poi viene fuori spesso: interessiamoci di cose pratiche, no? Perché andare a interessarci dello spazio e dell'astrofisica, e quindi spiegare questo, tu dici, Bucchi, sarebbe importante, sarebbe non lasciarlo. È importante perché la scienza non è solo una macchinetta per produrre dei risultati. Purtroppo questa è un po' la pericolosa immagine, rincorrendo magari modelli come quelli degli Stati Uniti, mentre la scienza è parte della cultura contemporanea, e quindi è giusto investire sulla ricerca di base, su cose che non hanno ricadute immediate. Si è dimostrato più volte che seminando a largo raggio poi si ottengono dei risultati importanti. Sì. L'altro equivoco pericoloso, secondo me, e anche lì nel caso dei vaccini è emerso, è la confusione tra una cosa scientifica, tra virgolette, è una cosa che viene talvolta confusa con una cosa detta da uno scienziato, magari al di fuori della sua area di competenza, perché poi bisogna ricordare il fatto che noi viviamo nell'epoca dei cosiddetti celebrity scientist, quindi il premio Nobel, lo scienziato celebre, gli si domanda poi come organizzare il trasporto pubblico nelle grandi città. A proposito di vaccini, questa è una domanda che facciamo a entrambi, la rete pullula di siti antivaccinisti e sembra che siano tanti i genitori che in qualche modo rifiutano le vaccinazioni per i propri figli. Questo ci può portare a dire che sta aumentando la diffidenza nei confronti della scienza, o altrimenti detto, perché ciclicamente in qualche modo siamo propensi a credere al ciarlatano di turno? Roberta. È vero che aumenta la diffidenza. Però i veri e propri antivaccinisti sono una minoranza, non dimentichiamoci che comunque i tassi di vaccinazione nei nostri bambini vuol dire che 8-9 genitori su 10 comunque vaccinano i loro figli, quindi attenzione a non dare troppo rilievo a chi urla più forte, perché comunque la stragrande maggioranza delle famiglie ancora ha questo approccio giusto a proteggere i propri figli. Però è anche vero che sta crescendo molto un'altra area, che non è quella del rifiuto ideologico a priori, che appunto è limitato a piccole minoranze, ma cresce una sorta di paura, di diffidenza, di ostilità generale, che dipende da tanti fattori. Sicuramente la rete ha amplificato certi timori, e soprattutto perché crea questo fenomeno di conferma delle nostre idee, per cui noi all'interno dei social siamo chiusi dentro delle bolle, come vengono chiamate, e tendiamo quindi a trovare conferma ai nostri pregiudizi all'interno dei social. Però c'è anche un problema grosso, almeno questo è quello che viene riconosciuto a livello internazionale dall'OMS, dai centri di ricerca anche europei, cioè che il problema principale è la fiducia. Cioè, dove c'è più fiducia nelle autorità in generale, non solo le autorità sanitarie, io mi fido che se il mio stato mi dice vaccina tuo bambino è per il suo bene. Dove c'è una situazione di sfiducia, e questo qui vengo, torno al punto della comunicazione trasparente, del dialogo, della disponibilità, il rischio è che questa sfiducia è aumenti. Dove c'è sfiducia in generale, in effetti, generale nei confronti delle autorità, delle autorità, governo, e quindi arriva del anche sulla scienza, o del medico, anche il rapporto medico-paziente. Questo vale per tutte le medicine alternative. La grande forza delle medicine alternative è che queste persone dedicano tempo al paziente, le ascoltano, accolgono i loro timori, anche le loro narrazioni, le loro interpretazioni, che i loro disturbi abbiano certe origini, e così coltivano e ottengono la loro fiducia. Massimiliano Bucchi, nel nuovo annuario Scienza, Tecnologia e Società di Observa Science Society, a proposito di fiducia, che cosa emerge? Quali dati troviamo? In generale noi vediamo in Italia, non solo in Italia, che gli scienziati sono sempre tra le figure, anzi forse addirittura quelle a cui si attribuisce più fiducia e più credibilità, molto più naturalmente della politica, del mondo dell'imprenditoria, dei media. È chiaro che in ambito sanitario, come diceva la dottoressa Villa, il tema della fiducia, e sappiamo in Italia purtroppo che la tradizione nel rapporto con le istituzioni non è una tradizione molto felice da questo punto di vista, però credo che ci sia un altro aspetto che noi vediamo proprio attraverso l'osservatorio molto forte in questi ultimi anni, ed è un atteggiamento che riguarda una concezione di avere sempre più la padronanza individuale delle scelte che riguardano il proprio corpo e la propria salute. Quindi il 57%, che secondo me sono tantissimi, che noi troviamo di italiani che dicono solo un numero limitato di vaccinazioni deve essere obbligatorio e sulle altre decido io, per me e per mio figlio, non è, come è stato già detto, non è figlio della disinformazione, è figlio di questo nuovo atteggiamento. Cioè, esasperando un po' la semplificazione, potremmo dire il vaccino è mio, me lo gestisco io, no? C'è questa sensazione di sapere sempre che cosa è meglio per se stessi, anche più del proprio medico. Però, ripeto, è un'onda lunga, secondo me completamente sottovalutata, ma che non ha a che fare con la disponibilità di informazione e con la fiducia nella scienza, certamente nelle istituzioni sanitarie, questo sì, è chiaro. Solo che qui ci sono aspetti positivi e negativi, per tanto a definire quanto è complessa la cosa, perché certo l'autodeterminazione è un sentimento che sta crescendo, c'è tutta la tematica molto delicata dell'eutanasia, però la stessa cosa può avere un'altra faccia e può diventare invece autolesionista nel momento in cui lo estendo invece in territori per i quali dovrei fidarmi. È veramente una vicenda complicata questa. Perché chiudere, conoscendo di più, valorizzando insomma il metodo scientifico, forse saremmo meno vulnerabili al ciarlatano di turno e ci fideremmo di più dei dati e non dell'aneddoto. Sì, è poco insegnato, dobbiamo dire. Cioè lo spirito critico ci manca. Roberto. Allora, io non penso che sia questo il problema. Io penso che il problema sia soprattutto dall'altra parte, cioè da parte di chi comunica, dalle autorità sanitarie, da noi che comunichiamo di scienza, eccetera, capire le ragioni profonde, sia cognitive che emotive, di certe reazioni. Per esempio della percezione del rischio che abbiamo di un vaccino rispetto a quello della malattia. Solo facendo una diagnosi precisa di questo, cioè dei motivi di certe ostilità, noi possiamo andare a mirarle. Non credo che sia un problema di conoscere il metodo scientifico, sinceramente. Massimiliano Bucchi. Sì, anch'io non credo che sia questo il tema. C'è sicuramente un tema, e questo in Italia forse ancora più che altrove, di cultura del ruolo sociale della scienza, cioè di quello che la scienza può fare e di quello che non potrà mai fare. Nel caso dei vaccini e su altri temi questo va letto in un quadro secondo me più generale proprio di cambiamenti e anche di crisi, oserei dire, del senso di comunità, perché la vaccinazione obbligatoria che cos'è? Sì, è certo. Un'imposizione di una scelta che il singolo percepisce come accettabile solo se riconosce un interesse generale come il proprio. Bucchi e Villa, Massimiliano Bucchi e Roberto Villa, ci avete portato alla fine della trasmissione. Speriamo di aver dato un contributo a avanzare nella comprensione di questa vicenda. O comunque di avervi fornito ulteriori spunti di riflessione. Grazie e buon lavoro a tutti e due. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Ci mancano 3 secondi. E li usiamo per dire... Buona settimana a tutti e a tutte. Ciao.